La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, alla nostra settimana cinematografica raccontata in mezz'ora qui su Radio 24, la guida per scegliere i propri film cercando di destinare al meglio gli 8, 9, 10 euro a seconda che si sia in 2 o in 3D che servono per sedersi 2 ore in silenzio, in pace, in un cinema, magari con un buon film di fronte. Questo è il nostro compito, non la chiamo missione perché se lo dicono, vabbè ti esalti, no, beh, comunque anche un po' la nostra missione. Questa settimana è una settimana piuttosto ricca di buone proposte, questo ci fa piuttosto piacere, ne parleremo subito, a cominciare da un film che arriva dalla Germania. È stato un vero e proprio caso in Germania, incassi record, una commedia con un respiro internazionale in un bianco e nero che fa tanto Nouvelle Vague e si intitola Oh Boy. In the spring they cast their feathers, I've been told. But all the radicals are growing up. E allora, che storia è questa di Oh Boy, film, come dicevamo, che in Germania ha avuto grandissimo successo, diretto da Jan Ole Gerster con Tom Schilling e Friedrich Kempter, un cast di attori giovani tedeschi. La storia di una notte, sostanzialmente, una notte a Berlino. Quella di Nico Fischer, un ragazzo di 20 anni, lo vediamo all'inizio alzarsi da un letto nel quale si capisce che la ragazza che lascia lì fra le lenzuola non la vedrà più, che la sua fidanzata di fatto lo ha lasciato. Da lì in poi è una mattinata tribolata, succedono una serie di cose, lo sportello della banca gli trattiene la carta di credito, un incontro con suo padre che scopre che l'università non la frequenta più da un pezzo, nonostante i soldi che lui gli manda li prenda ben volentieri, finisce come finisce. E insomma, questa giornata prosegue dal male al peggio, più o meno, però è una giornata che volge in serata, che permette al protagonista di incontrare vecchi amici, di incontrare una vecchia compagna di scuola, di avere con lei una storia che dura il tempo di un secondo, e poi quando di nuovo arriva la sera sui cieli di Berlino, incontrare un vecchio che gli racconta una storia di tanti anni prima, quando c'era Hitler e quando lui amava andare in bicicletta. Ho incontrato il tuo professore, il signor Collart, la scorsa settimana. Mi ha detto che ti sei ritirato 2 anni fa. Si può sapere che diavolo hai combinato in questi 2 anni? Ho riflettuto. Sei frigida per caso? Quanti anni hai? 17, 18? UMP, sa cosa significa? Valutazione medica psicologica, conosciuta in gergo anche come... Test dell'idiota? Test dell'idiota, e chi crede sia qui l'idiota, io o lei? Il tentativo per me è piuttosto riuscito, è quello di fare una commedia sofisticata all'americana, diciamo pure un po' alla Woody Allen, mischiandola però con il clima, le atmosfere, le riprese, il bianco e nero, veramente fotografia straordinaria in questo film, proprio di una, appunto, di un approccio nouvelle vague molto, molto naturalista al cinema. Raccontare questo tipo di storie, beh, le abbiamo viste raccontare, ricordate per esempio Cleo dalle 5 alle 7 o il Coffee and Cigarettes di Jarmusch, c'è questa musica jazz che segna quasi i battiti della giornata di Nico Fischer che è errante per il film, esattamente come lo spettatore, che rimane lì quasi con un'inerzia che lo porta da un episodio all'altro, buffo, sempre trattato con la chiave della commedia malinconica, però con un iter che si compie durante il film. Questa è la cosa importante, che comincia nel privato più privato, una stanza da letto con 2 amanti, e finisce nella storia con la S maiuscola. Ecco, questa è la forza di questo Oh Boy: lasciarsi trasportare a un buon cinema, a una buona musica, a situazioni che ti lasciano il sorriso, a testi scritti molto bene, però per raccontare e individuare qualcosa di più di un giovane di 20 anni inserito nel contesto di una grande città di oggi. Oh Boy è il primo film di cui parliamo qui alla Rosa Purpurea, è quello che vi consigliamo in questo fine settimana al cinema. E allora, detto di questo film, passiamo a giocare, perché come sempre qui alla Rosa Purpurea si gioca insieme con i grandi film in un video, due tracce misteriose da indovinare per poter vincere l'edizione, anche in questo caso in Blu-ray, di questo film. Sentiamo. Un intero continente collegato dalla ferrovia. Ora chiunque controlli questa controlla il futuro. Se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro indirizzo, mi raccomando, perché i primi due ascoltatori di questa puntata che ci diranno per bene il titolo del film potranno ricevere poi a casa il Blu-ray di questo film, che sveleremo ovviamente la prossima settimana. Ma se non l'avete ancora indovinato, fra poco vi facciamo sentire un'altra traccia. Adesso parliamo di un'altra proposta che arriva in sala in questo fine settimana, che è già nelle sale da giovedì, quando una palma d'oro del Festival di Cannes sbarca nei cinema italiani. Insomma, noi siamo sempre felici ed è sempre e comunque un film da andare a vedere, anche se poi magari uno dice ma sarà stato proprio il più bello dei film visti, poi ogni giuria chiaramente fa storia a sé e racconta una storia diversa. Qui siamo di fronte a un regista che aveva già molto impressionato coi suoi film più recenti, coi suoi film del passato. Penso soprattutto a quel Couscous passato a Venezia, che era un autentico capolavoro. Si chiama Abdelatif Kechiche e quest'anno ha vinto la Palma d'Oro con un film che invece si chiama La vita di Adele. Sentiamone una clip e poi ne parliamo con Sara Sagrati. Ho l'impressione di fare finta. Di fare finta su tutto. Chi è la ragazza che è venuta a trovarti? Con i capelli blu. Non stai bene? Ti vergognavi di dire che stai con una ragazza? No, non mi vergognavo, è solo... Da quant'è che mi prendi per il culo? Non ti prendo per il culo, non ti ho mai preso per il culo. Vattene via! Vai via! Esci dalla mia vita! Perché menti? Non mento. Allora perché piangi? Non piango. Storia di Adele, che ha 15 anni, poi dopo durante il film ne compirà un po' di più, la troveremo più adulta, anche se sempre giovanissima, e che sostanzialmente scopre la sua sessualità, scopre la sua omosessualità, scopre l'amore attraverso una ragazza dai capelli blu, che è appunto interpretata tra l'altro da Léa Seydoux, una vera e propria star del cinema europeo contemporaneo. Ebbene, e quindi potremmo chiamarlo viaggio iniziatico, potremmo chiamarlo viaggio all'interno di se stessi, per capire cosa si è e cosa si ama. Un film della durata di 3 ore, poderoso, il cinema di Kechiche non fa sconti, un cinema molto molto attaccato al viso, al primo piano, al volto delle protagoniste, e in questo caso devo dire che la prova di Adele, la vera Adele, la protagonista principale ex Arcopulos, è straordinaria, perché gestire e reggere così queste inquadrature con tutte le emozioni disegnate sul viso per così tanto tempo è sempre una grande sfida. E com'è una grande sfida, ovviamente sono una grande sfida 3 momenti di amplessi amorosi che vanno assolutamente oltre il patinato, anzi sono assolutamente iperrealisti. E allora, proprio da questo aspetto, poi dopo tiriamo una conclusione sul film, ma da questo aspetto volevo coinvolgere Sara Sagrati, che è in collegamento con noi. Ciao Sara. Ciao Franco. Mi piaceva proprio sentire la voce di una donna su questo momento di cinema di Kechiche, perché sono scene molto molto insistite, molto lunghe, dove si vede tutto e molto di più. Allora ci chiedevamo, pensa se una scena così fosse stata di un film che raccontava un amore etero o un amore omosessuale al maschile, si sarebbe forse gridato allo scandalo. Allora mi così serpeggiava un'idea, dico, ma non è che magari c'è, non dico un po' di voyeurismo, ma un po' di compiacimento da parte di Kechiche nell'insistere su un corpo femminile che, come dire, riceve di più l'attenzione rispetto a quanto può succedere negli altri casi che abbiamo narrato? Ma guarda Franco, io capisco benissimo il punto di vista ed è assolutamente comprensibile. Le scene di sesso sono lunghissime, sono, come dicevi, iperrealiste e non ci scontano nessun particolare, diciamo, corporeo. Quello che però è vero è che per quanto mi riguarda io non le ho provate per nulla pornografiche né voyeuristiche, ma le ho trovate insistentemente carnali, passionali, sono necessarie a comprendere quale sia la natura del vero rapporto tra le due donne, tra le due ragazze. Tanto che mentre le guardavo io non ho provato la sensazione di spiare dal buco della serratura, ma la sensazione di ascoltare i loro sentimenti. E attraverso queste scelte ci racconta anche altri sensi, che non sono solo quelli della vita di Adele o di Adele, ma della vita di tutti noi. E questo mi ha coinvolto veramente come non mai ultimamente al cinema. E allora abbiamo fatto bene a mandare Sara Sagrati a vedere La vita di Adele, perché questo ci spiega anche chiaramente un potenziale successo di questo film, che rimane ovviamente girato benissimo, interpretato benissimo e, per carità, sotto questo profilo certo che Shish non lo scopriamo adesso. Grazie Sara e a risentirci qui alla Rosa Purpurea. Grazie Franco, a presto. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, si continua a parlare di grande cinema in sala, sul grande schermo. Questa settimana un film molto atteso perché tocca da vicino il nostro presente, la figura di Julian Assange, gestore, fondatore di Wikileaks, è una figura nodale. Pensate proprio in questi giorni quello che sta succedendo poi col Datagate, per esempio, quanto sia importante la questione della gestione delle informazioni, delle notizie, dello spiare. E allora un film come questo arriva in un momento in cui è proprio lupus in fabula. E allora Il quinto potere, il titolo del film, noi ne ascoltiamo una clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Oggi è stato diffuso un video che mostra un elicottero militare americano mentre spara su dei giornalisti inermi. 12 milioni di persone hanno visto quel video. Pensi ancora che sia solo un piccolo sito web? Un uomo difficilmente sarà se stesso se parla in prima persona. Ma se gli date una maschera, lui vi dirà la verità. Questo cambierà le cose. Non è un giornalista, è una minaccia alla sicurezza nazionale. Siamo sull'orlo di una grave crisi internazionale. Se vuoi farlo, dobbiamo farlo ora. Se volete la verità, dovrete cercarvela da soli. Boris Sollazzo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea, addirittura in collegamento da Abu Dhabi. Ma che uomo internazionale, mamma mia. C'è un festival del cinema, però ricordiamolo, anche molto, ecco, molto bello. Allora, Boris, Il quinto potere, dicevamo, film che arrivano in un momento nodale. Poi è molto interessante come si storicizzino queste storie, queste vicende in così poco tempo. Ormai l'abbiamo visto anche con The Social Network, no? Cioè raccontare il nostro oggi già ci fa sembrare di essere di fronte alla grande storia, perché i tempi si sono accorciati su tutto. Sarà così anche col prossimo film su Steve Jobs, cioè vedere chi ha reso il nostro presente così com'è. E in questo caso succede anche con questa questione Assange WikiLeaks, però è sempre materia un po' difficile da trattare. Come è andata a Bill Condon in questo caso? Se vogliamo, il problema è proprio il montaggio della realtà, nel senso che dopo Assange è venuto Snowden, ma nel frattempo i tempi del cinema raccontavano Assange e quindi il film esce in qualche modo già vecchio. Bill Condon in più lo invecchia ancora, perché è un regista classico, un regista che non ha un immaginario moderno e spesso non ha un immaginario, lo prende da altri, quindi il suo Julian Assange sembra preso dai Tre giorni del Condor, sembra non vivere nell'era digitale, perché poi in fondo tutti i film che hai citato vengono dall'era digitale e tali devono essere raccontati, non certo con un ufficio che sembra preso dal dopoguerra e con pezzi di carta. Alla fine Assange sembra un villain qualsiasi che non ha né la capacità di essere abbastanza carismatico come un Che Guevara, né però di essere abbastanza diabolico come un Richelieu. Insomma, rischia di deludere un po' tutti questo quinto potere. Insomma, allora vedremo un po' se sarà così, vedremo se c'è abbastanza interesse anche per un film su Assange e sulla vicenda di WikiLeaks, perché poi chiaramente, come dicevi tu Boris, a volte invece gli anni servono proprio ad andare a storicizzare, a creare un pathos diverso nell'approccio con il film. Parliamo di un'altra pellicola invece che arriva in sala, che si intitola Cani sciolti, e qui abbiamo due attori di quelli che piacciono tanto al pubblico, insomma, Denzel Washington e Mark Wahlberg, lì che sono a fare da protagonisti a questa storia diretta da Baltasar Kormakur, che è un regista molto interessante, una vicenda interessante dove si mischiano narcotrafficanti e intelligence, e quindi c'è sicuramente tanta azione e ci sono tante battute scritte nella maniera giusta. Ascoltiamo. Vai! Tutti a terra, seduti. Esplosione! Andiamo, presto! Quanti secondo te? 40 milioni. Avete fregato la CIA. Al diavolo! Era questo il piano? Non te l'aspettavi, hai fatto una faccia! E tu ti fidi di lui? No, ma dai! Non c'era bisogno! Dammi la chiavi! Ti aspettavi la mossa? Sì, esatto, dammi la chiavi. E allora, Boris, questi cani sciolti, raccontaceli un po'. Beh, qui invece tutto va a posto, perché c'è Komagur, che è un geniaccio che si fece vedere a Locarno con 101 le chiavi, che vi consiglio di recuperare perché è un film straordinario. E qui prende Wahlberg e Washington, decide di prenderli proprio per quell'immaginario che richiamano, no? Un po' fracassone, molto action, un po' arrogante, e ne fa un buddy movie che è modernissimo, sia nel modo di girare sia nel modo di scriverlo. Vi faccio un esempio facile per capire quanto è bello e quanto è divertente. A Locarno, sotto una pioggia scrosciante, sono rimasti in 3000 a vederlo, ed era meritato, perché un action movie a volte può essere molto intelligente, molto interessante e fatto bene, anche se non ha contenuti altissimi. Boris, c'è un altro film che arriva questa settimana, proprio brevemente una valutazione, perché anche qui c'è di mezzo l'FBI, c'è di mezzo il Costa Rica, ci sono mondi esotici a fare da paesaggio per una storia d'azione. Si intitola Runner Runner ed è interpretato da Justin Timberlake, Gemma Arterton e Ben Affleck. Ecco, in questo caso due film d'azione, tra l'altro molto diversi, ma nella stessa settimana, un po' a contendersi il pubblico. Questa forse non è esattamente una genialata. Su questo film cosa possiamo raccontare? Beh, Runner Runner si fida più delle facce che in qualche modo mostra che sul contenuto e sulla sceneggiatura. I nomi che hai fatto sono soprattutto belle facce, anche bravi attori. Va detto, Timberlake dimostra secondo me una volta di più di essere molto meglio come interprete al cinema che come cantante, però la storia sembra un po' più facilona del solito, la solita storia di una truffa che poi diventa alleanza, tutto il thriller che si gioca tutto sulle strade della mente, la capacità di raccontare legami e strutture narrative complesse in maniera facile. Non che sia brutto il film, per carità, però mi sembra di averlo già visto un po' troppe volte. E allora, queste le valutazioni del nostro Boris Sollazzo, che lasciamo lì ai fantastici mondi arabi e cinematografici. Ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema. E allora, questo era il ricco menù dei film da vedere in sala cinematografica. Adesso giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Siamo persi, vero? Lo sapevo. Potrebbe andare peggio. Peggio? Come potrebbe andare peggio? Ora va peggio. E allora, la rosa purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che indovineranno, così come hanno fatto sette giorni fa i bravi, anzi il bravo e la brava, Yara Bravo, pensate qui che gioco di parole straordinarie, Yara Bravo di Rozzano, provincia di Milano, e Alessandro Colombo di Varese, che hanno indovinato questo film. Io sono Guy. Guy? E lui è il Laccio. Cucina, parla, fa da navigatore. Tu chi sei? Oh, Ip. Lascia che ti spieghi, il mondo sta per finire. Cosa? Io la chiamo Fine. Dun, dun, dun. E allora si trattava del film I Croods, una famiglia preistorica per raccontare anche il nostro contemporaneo, film molto molto divertente, lo hanno indovinato, avete sentito, Yara Bravo e Alessandro Colombo, che vincono una copia in Blu-ray del film, della quale parliamo con gli amici di Film TV, che come sempre ci aprono una porta sul mondo del cinema da vedere in casa. È con noi Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco, sì, erano I Croods, commedia preistorica d'animazione che scorre a ritmo indiavolato e racconta il sempiterno conflitto tra la tradizione e l'innovazione. Il Blu-ray di cui vi parliamo ha un'altissima resa, un'immagine che non risente della compressione, extra giocosi e interattivi dietro le quinte e scene tagliate. È disponibile anche in DVD più peluche e in Blu-ray con un altro disco con l'opzione 3D. Beh, l'edizione DVD più peluche, devo devo dire che già mi sta facendo salire. Il peluche dei Cruz, mai più senza. Allora, invece, per quanto concerne il film da vedere, la segnalazione di un film da vedere in casa durante la prossima settimana, io un po' perché c'è il Festival di Torino fra poco e ci sarà il nuovo film di Davide Ferrario, La Luna su Torino, un po' perché il film che vi stiamo segnalando è un film che io ho amato molto, volevo segnalare questo Piazza Garibaldi, che è stato fatto da Davide Ferrario con materiali d'epoca straordinari per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma insomma, come dire, Giulio, che racconta sempre un po' il nostro oggi. Sì, Piazza Garibaldi su Rai Storia, martedì alle 19, appunto girato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, è però un documentario tutt'altro che celebrativo, ma un viaggio personale di Davide Ferrario tra la storia, l'attualità, il passato e il presente, sempre alla ricerca di una risposta al perché questo paese sembra non avere un futuro. È un film veramente dove non c'è retorica, ma non ci sono al contempo nemmeno sconti. E allora ricordiamolo, l'appuntamento su Rai Storia martedì 30 ottobre alle 19, il film Piazza Garibaldi di Davide Ferrario. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra Rosa Purpurea. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, la Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità per restare in contatto durante tutta la settimana e dirci anche la vostra sui film che vedete in sala o in TV. Vi ricordo anche un appuntamento il prossimo giovedì e il prossimo venerdì sera. Il sottoscritto sarà in missione a Rho perché c'è un bellissimo cineforum. Hanno detto vieni a incontrare il pubblico. Allora, chi magari avesse voglia, scriveremo tutto sulla nostra pagina Facebook, indirizzo, orari, eccetera eccetera. Il film che faremo vedere, che racconteremo e commenteremo insieme sarà Rush, quindi film recentissimo, insomma, sulla grande epica lotta, sfida in Formula 1 fra James Hunt e Niki Lauda. E allora, grazie a Gianmarco Ferronato che ci ha aiutato qui in regia, Guido Scotti in redazione, appuntamento fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisi.